uscito in cella a sta compagna vostra, che ha già perduto sonno e a fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia, io in ciò volesse dicere, ma non ci saccio di, ma voglio bene, ma voglio bene assai, decide in cielo voi, che non mi scordo mai, è una passione più forte una catena, che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. אני שומעת מנגינה ללא מילים, כי את דבריך מחרישה הלמות ליבי. מבט עיניך פורט על מיתריי, ונשמתי יודעת פניך לא אליי. אמור לי למה, אמור לי עד מתי, ורועדות ידיי. אמור לי בואי, חבקי אותי חזק, אמור לי שאני una lacrima lucente è caduta, dici domeno poco a che pensate, questo occhio dolce voi sola mi guardate, levammoci questa maschera, dici la verità. Te voglio bene, te voglio bene assai, sì tu che sta catena, ma non si spezza mai, suona gentile, ma si spirami carnale, cerca con l'anima, te voglio poi campare.